Fat MC 2010, Bill Buck alle produzioni. È un assalto frontale. È un assalto verbale. Sì. Nel 2010 gli stronzi lottano ancora. Scrivo piani di evasioni cerebrali per Savona. È un assalto frontale con l'assalto verbale. Tecnicismi letterali distruggo il tuo piano astrale. Il vostro sogno, lo so, è quello di vedermi muto. Ma ho le rime che vi incastro nelle orecchie con l'imbuto. Sto seduto alla fermata, è un altro giorno straordinario. Poca voglia di restare, spengo i sogni nel mio cranio. Qua stiamo andando piano piano più lontano dalla vita che vediamo consumarsi in una mano. Con la carta contante come futile mandante. Siamo ancora in dopoguerra in un sistema replicante. Là fuori, tra ratti, pestilenze e traditori. Muori come i sognatori, con la bara senza fiori. Con i vermi nella bocca è la mia anima che parla. La lingua putrefatta taglia ma non puoi fermarla. È un assalto verbale per le strade d'Italia. Fat MC li va con il suono che squaglia. Tu non puoi fermare l'attacco alla capitale. È un anello che vi stringe alla gola e fa stare male. È un assalto verbale per le strade d'Italia. Fat MC li va con il suono che squaglia. Tu non puoi fermare l'attacco alla capitale. È un attacco frontale con l'assalto verbale. That's for real man, ma la gente non ha fede. Mendicanti ricchi dentro, fatti sopra un marciapiede. Chi ha il demonio nelle vene, chi ha l'amico col Mercedes. Chi si sbatte per la vita perché è morte ciò che vede. Mentre l'Eden rimane un paradiso irraggiungibile. Vendono merda in terra per farla sembrare simile. Dopo vendono la guerra come soluzione drastica. Ma la realtà è più drastica, viviamo chiusi in plastica. Classica, la conclusione che mi aspetto adesso. Mi diranno che l'han fatto per il bene del progresso. E questo è solamente un altro modo per ucciderti. Compromettere i tuoi limiti per essere più simili. Ma simili lividi e brividi di questi crimini. Minimamente vivi, ho testi con cui descrivervi. Chiuditi agli abissi dell'animo di chi osserva. È un assalto verbale che speri che a qualcuno serva. È un assalto verbale per le strade d'Italia. Fat MC li va con il suono che squaglia. Tu non puoi fermare l'attacco alla capitale. È un anello che vi stringe alla gola e fa stare male. È un assalto verbale per le strade d'Italia. Fat MC li va con il suono che squaglia. Tu non puoi fermare l'attacco alla capitale. È un attacco frontale con l'assalto verbale.